Stati Uniti, Trump, le tasse, il voto, pagherà dazio? Nagorno-Karabakh stavolta è guerra. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. The Times reporting the president paid just $750 in taxes in 2016 and again in his first year in office. Clashes between Armenia and Azerbaijan over the breakaway region of Nagorno-Karabakh. Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news. Buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. Un buon inizio di settimana da parte mia e da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Con me, come ogni giorno, ci sono Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni e in regia Valeria Bernardi. 349-238-6666 per SMS, WhatsApp, domande e commenti, ma anche Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, e poi Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Per parlare di che cosa? Due le pagine di questa prima puntata di Nessun Luogo Lontano. Da un lato sta facendo scalpore e promette di condizionare fortemente il proseguo della campagna elettorale americana la lunghissima inchiesta del New York Times, che va a ridisegnare la figura imprenditoriale dell'attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Per due anni ha pagato $750 di tasse. Poi emergono anche altri aspetti che, se non si trattasse di uno statista, del leader che guida la più grande potenza del mondo, forse potrebbero lasciarci un sorriso amaro. $70,000 per il parrucchiere, tutte spese detratte. Cercheremo di capire meglio quali sono i punti messi in luce nella prima puntata pubblicata dal New York Times e quali conseguenze potranno avere a 24 ore più o meno di distanza dal primo confronto televisivo con Joe Biden. E poi venti di guerra in Nagorno-Karabakh tra Azerbaijan e Armenia. Nelle scorse puntate, nella scorsa stagione di Nessun Luogo Lontano, vi avevamo raccontato di quelle tensioni mai sopite che spesso avevano portato a scaramucce, magari incidenti, qualche colpo di arma da fuoco tra uno schieramento e l'altro. Ecco, dalle 6 di ieri mattina è guerra conclamata. Di questo parleremo non prima di aver sfogliato i nostri dossier internazionali. Il primo ci riporta in Libia per ancora una volta riaccendere i riflettori sulla situazione dei 18 marittimi che sono ancora ostaggio dell'esercito nazionale libico. Siamo dalla parte del generale Khalifa Haftar, per intenderci, del presidente Saleh, Parlamento di Tobruk, sede di Bengasi. Pescatori italiani che sono stati fermati lo scorso 1 settembre saranno processati da un tribunale militare di Bengasi il prossimo mese di ottobre, lo ha detto ad Agenzia Nova il generale Mohamed Alwel Shafani dell'autoproclamato esercito nazionale libico. Quello che è interessante per adesso, l'accusa formulata verso i 18 marittimi è ingresso e pesca in acque libiche senza autorizzazione, e non figurerebbe l'accusa relativa a un sospetto, pensate, traffico di sostanze stupefacenti che sarebbero state trovate a bordo. È evidente che il caso ha preso un piglio tutto politico e staremo a vedere se vi saranno reazioni. Dubito da parte italiana, si lavora sempre sotto traccia, come sapete. Vedremo se Bengasi e Tobruk faranno ancora sentire la loro voce. Ogni volta che si dichiara qualcosa dalla Libia, evidentemente si vuole mandare un certo tipo di segnali anche alle autorità italiane. Lo ricordiamo, 18 marittimi in mano dei libici, per il momento sono agli arresti domiciliari. E poi un altro dossier che a noi è molto caro, perché il Libano, il paese dei cedri, è un incredibile cartina tornasole dell'intera area, dell'intero vicino e Medio Oriente allargato. Ieri il presidente francese Emmanuel Macron ha accusato i leader libanesi di tradimento collettivo. Perché? Perché sabato, il giorno prima, il premier designato Mustafa Adib, che era stato in qualche modo accolto tra le braccia del presidente Macron nel suo tentativo di formare un nuovo governo, ha dovuto gettare la spugna. Non ce l'ha fatta. Ancora una volta la spinta divisiva, settaria e fortemente politicizzata delle varie fazioni in Libano non hanno consentito a Adib di fermare il governo. Questa è una notizia. L'altra notizia è la reazione però dell'Eliseo, che è stata piccata e forte, forse come non mai nel dossier libico, perché ieri nella conferenza stampa Emmanuel Macron ha criticato proprio l'elite politica libanese per aver dato la priorità ai propri interessi egoistici rispetto a quelli del paese, e ha chiuso quella prima parte della conferenza stampa dicendo: provo vergogna per loro. E poi non è mancato un durissimo attacco molto frontale anche a Hezbollah, il partito sciita libanese, che ha anche un suo esercito, una sua ala armata, che è anche capace, soprattutto nel sud del paese, nella valle del Bekaa, di fornire un vero e proprio parastato ai tanti libanesi. Ha detto a Macron: Hezbollah non dovrebbe pensare di essere più potente di quello che è, deve dimostrare di rispettare tutti i libanesi. Negli ultimi giorni ha mostrato chiaramente il contrario. C'è una domanda che dobbiamo porre noi stessi a Hezbollah: è davvero un partito politico o procede solo secondo una logica dettata dall'Iran e dalle sue forze terroristiche? Così Emmanuel Macron. E poi in Bielorussia, perché proseguono le proteste. Solo ieri arrestate almeno 340 persone, lo ha riferito il Centro per i diritti umani Viasna, di cui ogni tanto ospitiamo alcuni dei loro esponenti, alcuni dei loro pensatori. Proseguono, dicevo, le proteste a Minsk e proseguono anche le fughe o quasi fughe dal paese da parte di leader politici, ma anche intellettuali e scrittori. Svetlana Alexievich, che è un premio Nobel per la letteratura e che è una fiera attivista e membro dell'opposizione bielorussa, ha lasciato il paese per la Germania per una serie di festival letterari, di presentazioni, ma ha fatto sapere che non ha ancora deciso se tornerà nel paese. Ciò dipende dall'evoluzione politica e dalle sue condizioni di salute. Questi nostri dossier internazionali arrivano, i vostri messaggi al 349-238-6666. Tra pochissimo ve ne darò conto, ma adesso è il momento di parlare ancora una volta di Donald Trump. Donald John Trump. Io, Donald John Trump, swear, giuro solennemente di ricoprire fedelmente il ruolo di Presidente degli Stati Uniti d'America. From this day forward, da oggi in poi, a new vision will govern, una nuova visione governerà la nostra patria. America prima first. L'America. America prima first. L'America. Your voice, la vostra voce, your hopes, le vostre speranze, and your dreams, i vostri sogni definiranno il nostro destino americano. Together, insieme renderemo l'America di nuovo forte. We will make America proud again. Fiera. And yes, e together, sì, insieme we will make renderemo di nuovo l'America grande. Again. La dichiarazione dei redditi di Donald Trump è stata rivelata da uno scoop del New York Times. Ha eluso il fisco dichiarando centinaia di milioni di perdite per ridurre il proprio versamento. Totally fake news, made up, fake. È totalmente falso. We went through the same. Mi avete fatto le stesse identiche domande 4 anni fa, quando mi fu fatta un'accusa analoga. Totally fake news. È tutto falso. Così il racconto in 90 secondi. Valentina Ternullo e Valeria Bernardi ci portano dritti nel cuore della prima pagina di Nessun Luogo Lontano, super scoop del New York Times, firmato da 3 giornalisti, Russ Butner, Susan Craig, Mike McIntyre, che in un tempo, secondo alcuni ascoltatori, già leggo i messaggi, sospetto, ma solo sotto lezioni si trovano le dichiarazioni di 10 anni fa di Donald Trump, scrive un ascoltatore. Comunque, a distanza di pochissimo dalla tornata finale, dalla fine, dell'epilogo di questa lunga cavalcata elettorale, mette in croce il presidente statunitense, perché per anni non avrebbe pagato tasse, per 2 anni, 2015-2016, appena $750 all'anno. Proprio mentre vi parlo, la CNN, che sta riprendendo il tema con ampi spazi, collegamenti e interviste, ricorda per esempio che gli insegnanti hanno pagato $7,000 l'anno di tasse, i pompieri $5,283, le infermiere $10,000, riprendendo peraltro quello che è stato uno delle immediate repliche di Joe Biden, l'altro candidato, che tra meno di 24 ore si troverà in diretta televisiva, 1 ora e mezza di dibattito, ore 3 del mattino, ora italiana, in cui probabilmente pesterà duro sul competitor repubblicano. Dicevo, torniamo a quella che è Questa lunga inchiesta del New York Times ci hanno messo mesi i giornalisti per recuperare le dichiarazioni e tutta questa serie di informazioni, soprattutto fiscali, che, attenzione, nella storia delle elezioni presidenziali statunitensi erano sempre state fornite in massima trasparenza da tutti i candidati alle presidenziali, mentre Donald Trump si era sempre rifiutato di rendere pubblici i propri conti. Nella prima puntata dell'inchiesta in New York Times che cosa emerge? Proviamo ad andare per punti. Il primo, gran parte del business di Donald Trump riporta perdite milionarie anziché guadagni. Negli anni 90 alcuni dei business lanciati da Trump, come i casinò nel New Jersey, provocano circa $1 miliardo di perdite. Queste perdite, abbinate ad altre attività in attivo, come la Trump Tower, gli permettono da un lato di evitare la bancarotta, dall'altro di generare detrazioni fiscali distribuite nell'arco di ben 18 anni. E proprio questa normativa sulle detrazioni fiscali, discutibile forse se si pensa alle spese per il parrucchiere, $70,000 l'anno, hanno permesso a Trump di creare questo meccanismo che gli ha permesso appunto di versare pochissime tasse anche negli anni successivi. L'unica attività con saldo positivo, secondo i cronisti del New York Times, è la Trump Tower, che genera ogni anno $20 milioni di profitti. Poi però i più attenti ricorderanno, anche perché quello show, quel programma televisivo, ebbe un riflesso, un esito anche tutto italiano. Nel 2005, dicevo, le finanze di Trump tornano a colorarsi di rosa. Perché? Perché il reality show The Apprentice fa il botto di ascolti, e dal 2005 al 2007 le entrate nette dovute al successo di questo show generano, pensate, $120 milioni di profitto puro. In quel periodo Trump paga sì le tasse, paga $70 milioni di tasse, e allo stesso tempo, grazie a quella leva finanziaria e quei guadagni, si lancia in altri business. Però i successivi business sui quali si lancia sembrano andare tutti male, sostanzialmente fallimentari. E così il New York Times sottolinea come la sua area, diciamo, più redditizia del suo business sia proprio l'immagine di un grandissimo imprenditore, quando in realtà, secondo appunto i cronisti del New York Times, non lo sarebbe. Un altro dei punti particolarmente controversi è tutta la catena degli hotel di Trump, che ha ospitato il personale della Casa Bianca a spese dello Stato. Sostanzialmente, quando Donald Trump risiede nelle residenze, come a Mar-a-Lago, il personale della Casa Bianca paga la residenza che appartiene allo stesso presidente. Inoltre Trump ha beneficiato del suo ruolo, basti pensare a lobbisti come Bill Graham Evangelistic Association, che hanno scelto di tenere per esempio le loro convention, i loro eventi più ricorrenti e più danarosi, proprio nelle strutture di Trump a pagamento, pur di stare vicini al presidente. Adesso Trump è in sede di controversia con l'IRS, cioè l'Agenzia delle Imposte statunitensi, e se perde questa controversia dovrà versare al governo oltre $100 milioni. In più, dal punto di vista strettamente personale e finanziario, non se la passa benissimo, perché avrebbe un ammontare di debiti pari a $421 milioni che scadranno nell'arco dei prossimi 4 anni. Questa è la prima puntata del lunga inchiesta del New York Times, che promette di regalarci nei prossimi giorni ulteriori retroscena. L'avete sentito, Donald Trump ha rigettato, in realtà con un tono più sommesso del solito, tutto il lungo lavoro del New York Times come fake news, ma qua è una litania alla quale siamo abbastanza abituati. E poi naturalmente ci sono alcuni ascoltatori che sono particolarmente fedeli a quella cosiddetta narrativa del Deep State, che scrivono per esempio: Trump e Putin sono gli ultimi baluardi contro il Deep State, ma per i giornalai e pennivendoli scendiletto del Bilderberg, così scrive, l'informazione è sempre a senso unico, ma tanto nessuno vi crede più. Oltre a, caro gentile ascoltatore, chiederle di sostanziare un po' meglio l'affermazione, perché non si capisce sulla base di quale fonti lei faccia queste affermazioni, le ricordo che per mesi questi tre giornalisti hanno lavorato sui conti, sulle carte, su fonti anche interne all'amministrazione e vicini a Donald Trump. Per cui prego anche di prendere assolutamente posizione, perché no, però infarcire con un po' di contenuto anche quelle che sono le vostre prese di posizione, altrimenti sembrano slogan vuoti. Su giornalai e pennivendoli francamente non rispondo neanche. Torneremo naturalmente anche sull'affair Trump, che promette di scaldare e parecchio la campagna elettorale americana. Adesso però con Valeria Bernardi andiamo su un confine che era caldo, ma da ieri, ore 6 del mattino, è caldissimo. La situazione è molto complicata. Si spara da ambo le parti e ci sono morti e feriti. Secondo alcune fonti, 550 soldati armeni sono stati uccisi il primo giorno. Le notizie si susseguono rapidamente e le cose stanno evolvendo in fretta. Le ostilità sono partite dal lato armeno domenica mattina alle 6 e le forze aeree hanno risposto con una controoffensiva nella zona che è parte di un'operazione antiterroristica in Nagorno-Karabakh. Certo, abbiamo un piano su come liberare Khankendi dall'occupazione e questo risale a 25 anni fa, quando fu occupata, quindi non è qualcosa di nuovo. Ma questa volta, fortunatamente, dovremmo riuscire. Ma come abbiamo detto molte volte, non combattiamo contro il popolo armeno o i discendenti armeni che vivono in Nagorno-Karabakh. Stiamo liberando la terra che ci appartiene e che è stata occupata. Questa è una guerra contro la politica e l'occupazione armena. La voce che avete appena sentito è quella di Rustam Fataliev, che è un giornalista a zero. È stato raggiunto da Emanuele Giulianelli, collega di cui fra poco vi farò sentire la voce, sarà il nostro secondo ospite. Come avete sentito, si è dato da fare nonostante sulle linee del fronte le linee internet ovviamente siano la prima cosa che salta, ma con una certa fatica è riuscito a recuperare alcuni colleghi che stanno cercando di seguire la linea del fronte dove si stanno scontrando i due attori. E naturalmente avete sentito anche il plurale, parla usando il noi e cerca di portare avanti quella che è la causa dell'Azerbaigian. Ecco, questo è un conflitto in cui la propaganda e il rischio della disinformazione è altissima, per cui già fin d'ora vi anticipo che sarà difficilissimo per noi anche nei prossimi giorni andare a verificare in maniera imparziale quelle che sono le fonti. Non da ultimo anche il bilancio che è stato riportato, secondo il giornalista a zero vi sarebbero 550 soldati armeni uccisi, in realtà altre fonti parlano di un numero estremamente minore. Intanto arrivano i messaggi al 349-238-6666, non soltanto su Donald Trump ma anche sulla questione Azerbaigian-Armenia, Nagorno-Karabakh in particolare, che è uno stato de facto che è tornato dopo i venti di guerra dei mesi scorsi, forse dovremmo dire degli anni scorsi, è tornato al centro degli appetiti sia dell'Azerbaigian sia dell'Armenia. Allora proviamo a fare un po' di chiarezza: che cos'è il Nagorno-Karabakh e qual è la sua importanza. Il Nagorno-Karabakh è una piccola regione montuosa del Caucaso meridionale, un fazzoletto di terra conteso tra Azerbaigian e Armenia già a partire dal 1918, con la caduta dell'Impero Russo. Con la nascita dell'Unione Sovietica, il Nagorno-Karabakh, dove vive un'importante minoranza armena di fede cristiana, viene inserito all'interno dei confini dell'Azerbaigian, paese a maggioranza musulmana. Le tensioni tra i due paesi vengono temporaneamente congelate, ma già nella seconda metà degli anni Ottanta la situazione comincia a deteriorarsi. Si verificano con sempre maggiore frequenza scontri interetnici, espulsioni forzate e violenze ai danni della popolazione civile di entrambe le parti. Lo sfaldamento dell'Unione Sovietica fa esplodere il conflitto. Il 30 agosto 1991 l'Azerbaigian decide di lasciare l'URSS. Tre giorni dopo il Soviet del Nagorno-Karabakh vota per la secessione dell'Azerbaigian, in base a una legge che gli consente di scegliere se seguire o meno la Repubblica Secessionista nel suo distacco dall'Unione Sovietica. Anche se il Consiglio Supremo azero vota l'abolizione dello Statuto Autonomo del Nagorno-Karabakh, nella neonata Repubblica, il 10 novembre 91, si tiene un referendum per la convalida dell'indipendenza, che si conclude con il 98% dei consensi. Il 31 gennaio 1992 inizia ufficialmente la guerra del Nagorno-Karabakh, che in poco più di due anni ha provocato 30.000 vittime e centinaia di migliaia di profughi. Nonostante il cessate il fuoco firmato nel 1994, la tensione nella regione è rimasta elevata. A partire dal 2012, in particolare, si inaspriscono i rapporti tra le parti in conflitto e aumentano gli incidenti lungo il confine. Nell'aprile del 2016, la cosiddetta guerra dei quattro giorni lanciata da Baku provoca scontri violentissimi e un centinaio di morti. Buongiorno e ben ritrovata nel luogo lontano anche a Roberto Buongiorno, inviato del Sole 24 Ore, che ben conosce quella zona, vi è stato parecchie volte, non da ultimo durante le elezioni in Azerbaigian. Buongiorno Roberto, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Allora Roberto, raccontavamo di venti di guerra che hanno spirato a volte in maniera anche gelida e sotterranea in quella zona. Stavolta però da domenica, da ieri alle ore 6 del mattino è guerra a tutti gli effetti. Cosa è successo? Cosa è cambiato? Perché questa escalation nel weekend? Come avete detto, è un conflitto che si trascina in modo silente ormai dal 94, anche quando ero stato sulla linea del confine, che poi è la linea di cessate il fuoco. Le popolazioni lì, pensate che devono seppellire i morti la notte, perché i cecchini sparano su ambo i lati, ovviamente quello dell'altra parte più disabitato, quello armeno. Quindi è una situazione di tensione che va avanti. Ovviamente dopo che l'Azerbaigian ha incontrato una serie di cocenti delusioni sul fronte del processo diplomatico, ossia il gruppo di Minsk e i principi di Madrid, che dovevano avviare a un'agoniata da parte degli azeri, riannessione dei sì. territori conquistati dall'Armenia e del Nagorno-Karabakh, questa guerra è scoppiata. In effetti era un conflitto latente che durava da tanto tempo. Sì. Sentendo oggi al telefono le due parti, perché come voi avete detto benissimo, questo è un conflitto dove la propaganda è letta a regola del sistema, dove se si va a Baku, ma anche a Yerevan, le giovani generazioni vengono indottrinate fin dai primi anni di vita a riconoscere nell'altro popolo il nemico che deve essere combattuto, il nemico che ha rubato il territorio. Quindi è molto difficile la situazione, veramente difficile da seguire. Detto ciò, perché ora? Sentendo le due controparti, innanzitutto tutti dubitano che si arrivi a una guerra completa, perché sarebbe un disastro economico in un periodo di Covid per l'Armenia e soprattutto per l'Azerbaigian, che ha delle grandissime infrastrutture energetiche, non ultime quelle che collegano l'Italia, ma anche per la Russia e la Turchia, che si trovano ancora una volta su fronti opposti in un conflitto dopo Siria e Libia, che preferiscono, così a vedere, nonostante i proclami belligeranti di Erdogan, a cercare di trovare una soluzione diplomatica, perché la soluzione l'altra soluzione sarebbe un vero e proprio disastro in questo periodo. La voce che state ascoltando è quella di Roberto Buongiorno, inviato del Sole 24 Ore, ha già tracciato con grande precisione uno scenario che tra pochissimo approfondiremo. Altri due grandi attori nell'ombra, ma neanche poi tanto, se fosse confermata un'agenzia che è stata abbattuta poche ore fa, almeno 4.000 miliziani provenienti dai territori della Siria e legati alla Turchia di Erdogan sarebbero stati inviati proprio sul fronte. Una tattica, una strategia, o meglio, per meglio dire, che abbiamo già visto in altri teatri, non da ultimo quello libico. Roberto Buongiorno, inviato del Sole 24 Ore, conosce bene, ha raccontato tante volte sul quotidiano le dinamiche economico, politico e militari di quella regione. C'è un punto, un tassello fondamentale, Roberto, che è la parte energetica e i legami con l'Italia, soprattutto dal punto di vista dell'Azerbaigian. Sì, l'Azerbaigian ha un rapporto privilegiato con l'Italia, è saputo, e da quando poi nel 2011, allo scoppio nel febbraio del 2011, la produzione libica di greggio precipitò, ecco che l'Italia si è rivolta all'Azerbaigian, che ha un petrolio di qualità, sweet light, molto simile al libico, e divenne prontamente il nostro primo fornitore di greggio. A questo aggiungiamo poi il corridoio sud, il grande progetto per far diventare l'Italia un hub del gas, per affrancarsi la dipendenza energetica russa, e quindi il TAP, quindi il gas che arriva dai giacimenti di Shah Deniz nel Mar Caspio. Vedete voi che c'è un legame molto forte con tutti questi soldi che sono arrivati nelle casse degli azeri, peraltro, le spese militari azere sono cresciute in modo spropositato, proprio per, retoricamente il governo doveva far vedere alla popolazione che scontenta per un processo democratico non troppo brillante, che comunque veniva mantenuta in vita la speranza di riacquistare Nagorno. Pensate, negli ultimi 10 anni alcuni istituti dicono spese militari aumentate di quasi il 500%. La cosa interessante è da chi compra però le armi l'Azerbaigian, le più sofisticate. Le ha comprate parecchie da Israele, perché pur essendo un paese musulmano, è un paese musulmano che comunque è laico. Da Israele e la gran parte di altre armi le ha comprate dalla Russia. La Russia è praticamente il primo fornitore di armi dell'Armenia e uno dei maggiori fornitori di armi dello stesso Azerbaigian. La Turchia invece è molto arrabbiata, sia perché fornisce meno armi all'Azerbaigian ed è molto più infervorata, perché è anche un presidente portato ad una retorica di guerra più spinta, meno incline alla mediazione. Sì. Certo è che l'Azerbaigian, che con l'Italia coltiva un rapporto privilegiato, e con la Francia, dove la diaspora armena è molto forte, la Francia è uno dei tre, insieme a Stati Uniti e Russia, co-presidenti del gruppo di Minsk, che dovrebbe servire a risolvere la questione del Nagorno. Ecco, l'Azerbaigian è rimasto molto deluso. Questo per chiudere prima, perché poi ha deciso un'azione secondo le sue parole. Siamo stati delusi da tutti. L'Armenia ha abbandonato i principi di Madrid. Sì. Noi a questo punto andiamo in guerra. Tutti però sono inclini a pensare che se le cose non dovessero sfuggire di mano, forse si può tornare a una nuova tregua. Sì, perché il rischio escalation effettivamente c'è, ma allo stesso tempo gli interessi economici e la stabilità di quella zona, in passato funestata da turbulenze e da guerre, chiaramente interessa a tutti gli attori vicini, dalla Russia, passando per l'Iran, fino alla Turchia. 349-238-6666, il numero che ha composto un ascoltatore, uno fra i più attenti degli affezionati qui in Nessun Luogo Lontano. Azerbaigian, Cipro, Balcani Meridionali, Egeo, Libia, con la diplomazia o con le armi, Erdogan sta sistematicamente prendendo posizione lungo i gasdotti non russi per costringere l'Europa a riconoscerlo come un male necessario. Per l'immigrazione ci è riuscito, scrive l'ascoltatore, ma ora la posta è una risorsa vitale, sarà la sua rovina. Così uno degli ascoltatori più attenti. Roberto, buongiorno. Forse coglie un punto molto molto interessante. Forse finché Erdogan va a toccare e un po' a rimestare le carte sul dossier immigrazione, forse gliela fanno passare liscia. Ma quando si tocca il gas, le risorse energetiche, il gioco si fa più duro. Detto bene Giampaolo, ricordiamoci quello che è successo con la Francia nel Mediterraneo, insomma, quello che sta ancora accadendo in queste settimane nel Mediterraneo, quando si toccano gli interessi europei, perché c'è anche la Francia o qualche potenza di mezzo, il gioco di Erdogan diviene più difficile da portare. Avevo anche detto una cosa, che Erdogan ci ha abituato a proclami belligeranti, però non sempre le parole, cioè i fatti, sono seguiti alle minacce, e questo è quello che tutti erano, anche perché la stessa Turchia, che è un paese che importa il 90% dell'energia che consuma e importa gas dall'Azerbaigian, non vuole trovarsi in una situazione di guerra totale dove a rischio sono le stesse infrastrutture energetiche azere. Certo, grazie mille a Roberto Bongiorni, inviato del Sole 24 Ore, e si sta occupando proprio di questa questione, la questione del Nagorno-Karabakh. E peraltro grazie a lui, grazie intanto Roberto, alla prossima. Facciamo anche sentire una voce che ci hai gentilmente aiutato a recuperare. Allora lo dico immediatamente a tutti le ascoltatrici e gli ascoltatori, abbiamo disperatamente cercato colleghi armeni, è da ieri sostanzialmente che siamo al telefono su internet per cercare persone anche dalle linee del fronte, ma internet viene tirata giù come immaginate. È stato estremamente difficile, abbiamo ricevuto più dinieghi che altro, o se no non risposte, da parte armena. Questo per come dire, rassicurarvi che abbiamo cercato di costruire anche questa puntata come sempre facciamo, cioè dando voce a entrambe le parti. E così allora vi faccio sentire un'altra voce a Zera, lui è Farid Shafiev, lo ha raggiunto Roberto Bongiorni, lui è stato ambasciatore e adesso guida un think tank che è basato a Baku, si chiama Centro dell'Analisi delle Relazioni Internazionali. Sostanzialmente la tesi dell'Azerbaigian è che siano stati gli armeni a iniziare le ostilità, ma negli ultimi anni qual è stata la posizione armena? Sentite. L'Armenia in questi ultimi anni aveva cercato di mantenere lo status quo. E perché? Perché l'Armenia controlla territori azeri, sfrutta risorse naturali azere, Installa armeni da altre zone del suo paese in territorio azero, violando le leggi internazionali e la Convenzione di Ginevra. Il patrimonio culturale azero presente in quelle zone viene saccheggiato e distrutto. Quindi questo status quo era abbastanza soddisfacente per l'Armenia. Ed ecco perché il governo di Erevan, la capitale armena, ha prolungato la situazione a tempo indeterminato e, nonostante il richiamo dei mediatori, il cosiddetto gruppo di Minsk, cioè la Francia, la Russia e gli Stati Uniti, l'Armenia ha rimandato qualsiasi trattativa con vari pretesti, evitando una soluzione del conflitto. Avete ascoltato la voce di Farid Shafiev, già ambasciatore azero, adesso guida questo think tank di analisi politica e di relazioni internazionali che è di base a Baku. 349-238-6666, qualcuno scrive: come Saverio, fermate immediatamente Erdogan, assomiglia sempre di più a Hitler, evidentemente spaventato da queste ambizioni che l'abbiamo raccontato molte volte. Il tono diplomatico è assolutamente muscolare, ma a questo punto oltre al lessico e alle parole incendiarie seguono anche, se fossero confermate quelle voci, aiuti militari piuttosto corposi, gli F-16, come denunciato da parte armena, e anche almeno 4.000 miliziani che dal teatro siriano sono stati spostati in Nagorno-Karabakh. Allora intanto vi faccio sentire, torniamo a quella voce azera, quella di Farid Shafiev, del think tank basato a Baku, Center of Analysis of International Relations. Molti accusano la Turchia di sostenere apertamente l'Azerbaigian, l'Armenia invece godrebbe dell'appoggio della Russia, ovviamente in chiave anti-turca. Che cosa risponde a questo schieramento di pesi massimi internazionali? Sentite Farid Shafiev. I would like to highlight that currently vorrei sottolineare che al momento l'Azerbaigian sta conducendo le sue operazioni militari da solo. Le forze militari azere stanno conducendo una controoffensiva rivolta contro l'esercito armeno e non ci sono nazioni terze coinvolte. Sappiamo che la Russia dispone di basi militari in Armenia e ha recentemente rifornito l'Armenia di armi. Negli ultimi 10-15 anni la Russia aveva rifornito di armi anche l'Azerbaigian, ma quantità molto maggiori di equipaggiamento militare, per la maggior parte senza un pagamento corrispettivo, oppure a credito, sono state cedute all'Armenia. Questo è un elemento molto importante da ricordare. Per quanto riguarda il contrasto in corso tra Turchia e Russia nel Caucaso meridionale, penso che un'escalation a viso aperto tra queste due potenze sarà evitata. Nessuna delle due parti è interessata a un'escalation o a scontri nel Caucaso del Sud. Nonostante i contrasti in Siria e in Libia, dovremo riconoscere che, perlomeno per quanto riguarda la Siria, Mosca e Ankara hanno raggiunto un accordo di massima su alcuni punti fondamentali. Sono stati evitati scontri su larga scala. In Libia la situazione è molto più difficile, ma penso che entrambe le nazioni non siano interessate in un faccia a faccia nel Caucaso del Sud. Questa è la voce di Farid Shafiev. Torno invece a quella di Emanuele Giunenelli, giornalista e scrittore. Emanuele, buongiorno, ben ritrovato nel suo luogo lontano. Eccomi, buongiorno, buongiorno. Eccoci qua. Allora, tu hai indagato, complice la scusa, tra virgolette, la lente, diciamo così, dello sport e del calcio, le società, la società civile nel Nagorno-Karabakh. Come immagini stiano vivendo le due comunità in questo momento così delicato, così tragico, e a sentire dalle parole di Roberto Bongiorni, così intriso di feroce propaganda l'uno verso l'altro? Ovviamente la tensione è altissima su ambo i fronti, anzi potrei dire sui tre fronti, nel senso perché c'è il fronte della popolazione azerbaigiana, di quella armena vera e propria e poi di quella armena che vive nella regione del Nagorno-Karabakh, che sta vivendo veramente la situazione forse ovviamente più complicata. Da Stepanakert, o Kankendi come la chiamano gli azerbaigiani, sì. C'è tanta paura perché le persone da ieri sono già nei rifugi, la città è stata già bombardata perché con l'artiglieria pesante appunto fornita soprattutto da turchi e russi, l'Azerbaigian è riuscita già a colpire la capitale del Nagorno-Karabakh e le truppe si stanno avvicinando. Le truppe azerbaigiane si stanno avvicinando e c'è tanta incertezza. C'è incertezza perché gli scenari possibili fondamentalmente in questo momento sono due. Uno è quello che l'Azerbaigian, dopo aver conquistato, ripreso le sette province che sono intorno al Nagorno-Karabakh, perché c'è da dire che la guerra non si è conclusa con soltanto la dichiarazione di indipendenza del Nagorno-Karabakh, poi appunto non riconosciuto da nessuno, ma c'è stata la presa da parte dell'Armenia anche di sette province che non fanno parte del Nagorno-Karabakh storico, e queste per l'Azerbaigian sarebbe già una questione chiave recuperare quelle. Quindi o si potrebbero fermare. E mi sa che mi ha perso il collegamento con Emanuele Giulianelli, stava tratteggiando quello che è un primo risultato, potrebbe essere un primo risultato per l'Azerbaigian, una sporadica, una piccola conquista di territorio, forse da rivendicare anche a livello interno. Vediamo se Emanuele è tornato con noi, la linea ci soccorre. Emanuele? Sì, ci sono. Eccoci. No, dicevo, la prima idea potrebbe essere quella di conquistare quei territori. La seconda, che è la più quella che nessuno di noi spera, è un conflitto che si amplierebbe su ampia scala, nel senso che se loro continuassero ad avanzare con lo scopo di riprendersi tutte le sette province più il Nagorno-Karabakh, io credo che anche gli altri attori internazionali in campo non potrebbero più tacere o rimanere comunque in una posizione così defilata. Immagino, spero e credo che ci sarebbe anche una presa di posizione delle Nazioni Unite, una presa di posizione dell'Europa e oltretutto ovviamente della Russia, della Turchia, tutti gli attori in campo. Ecco, in proposito, Emanuele Giulianelli, vi faccio sentire, ti faccio sentire anche un altro intervento, una giornalista investigativa azera e di base a Baku, lo ripeto, abbiamo cercato disperatamente voci armene, ma o non siamo riusciti a raggiungerli o si sono rifiutati di commentare, le Kaja Ismailova. A lei abbiamo chiesto quanto è rischioso e quanto si ha paura di un eventuale intervento della Russia. Sentite. All the military operations now are happening inside the recognized territory of Azerbaijan. E la Ismailova spiega che tutte le operazioni militari stanno avvenendo all'interno del territorio riconosciuto internazionalmente dell'Azerbaigian. Nessuno scontro si sta verificando nel territorio armeno. Quindi la Russia non può essere ufficialmente coinvolta. Quello che fa la Russia, continua la collega, è inviare equipaggiamento militare in Armenia tramite l'Iran. Non può far arrivare i rifornimenti attraverso la Georgia e men che meno dall'Azerbaigian, quindi invia aerei in Iran. Sono state recentemente filmate colonne di camion militari russi entrare in Armenia dal confine iraniano. Ovviamente tutto ciò viene fatto in modo non ufficiale. In questo conflitto la Russia supporterà l'Armenia come ha sempre fatto in questi ultimi anni. Questa è la voce di Kaja Ismailova, l'abbiamo sentita pochissimi minuti fa. Emanuele Giulianelli, la disinformazione e la propaganda forse sono una delle armi più formidabili a disposizione dei due governi. Quanto impatteranno e che ruolo potranno giocare? Hai però solo 40 secondi per rispondere, ce la fai? Un ruolo fondamentale, come avete detto anche voi all'inizio della trasmissione, perché è una situazione ed è una guerra in cui, se andate a cercare anche su internet, sui vari siti più importanti, c'è pochissima informazione su ciò che sta succedendo minuto dopo minuto. Io sono in contatto appunto con dei colleghi in Azerbaigian e in Armenia per avere delle notizie. Quindi ciò che veramente farà la differenza è la propaganda, saranno quello che fondamentalmente i due presidenti andranno a dire alle loro popolazioni rispetto alla parte avversa, nel senso l'Azerbaigian dirà sempre che l'Armenia, l'Azerbaigian dirà che loro stanno andando a riprendere i loro territori, ciò che gli spetta, l'Armenia invece accuserà l'Azerbaigian aggressore. Sì, e purtroppo una retorica super divisiva, ma tant'è. Avete ascoltato la voce e il commento di Emanuele Giulianelli, giornalista, scrittore, freelance. Ricordo il suo libro, edito da Ultra nel 2018, Karabakh, la squadra senza città, la conquista dell'Europa, un modo per raccontare storie di sport e allo stesso tempo aprire su quel territorio così funestato, ai noi, dalle guerre. Vi segnalo soltanto un ascoltatore, ce la segnala in particolare a Valeria Bernardi su Facebook, che ci scrive relativamente alla prima pagina: ma quanto ce l'avete con Trump? Le forze del male vi guidano. Quindi, Valeria, defenestraci. You're fired. Sono i giornalisti del New York Times e noi riportiamo semplicemente uno dei più prestigiosi quotidiani internazionali. Grazie mille a tutti voi per essere stati all'ascolto, grazie alla squadra. Ci sentiamo domani ore 16, un saluto.